ad alta voce, in collaborazione con l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi. Fausto Paravidino legge «Ho servito il re d'Inghilterra» di Bumil Rabal. State attenti a quello che adesso vi dico. Quella valigetta con francobolli postali pregiati mi portò fortuna. Non subito, ma solo dopo, perché dopo la fine della guerra ricevetti il decreto piccolo, anche se avevo dato l'indirizzo di quel comandante della Gestapo, quello che aveva assassinato tante persone ed era fuggito e si nascondeva da qualche parte in Tirolo, e io da mio suocero Kebb ero venuto a conoscenza del luogo dove soggiornava, e Zdenek ebbe dagli uffici americani il permesso e andò a prenderlo in auto con due soldati. Lo trovarono che falciava il prato, travestito, con calzoni e camicia tirolesi, e si era fatto crescere la barba. Anche se l'avessi arrestato stato io, ugualmente i Sokol di Praga mi misero in galera. Non perché avevo sposato una tedesca, ma perché all'epoca in cui giustiziavano migliaia di patrioti ciechi, io stavo all'ufficio nazista del sangue e della protezione dell'onore tedesco e mi facevo visitare. Io, membro effettivo del Sokol, mi facevo volontariamente visitare per vedere se ero in grado di congiungermi sessualmente con una donna ariana germanica. Così, per questo presi 6 mesi, come diceva il decreto piccolo. Ma poi mi misi a vendere quei francobolli e ne ricavavo somme tali che ci ricoprii 10 pavimenti del mio appartamento, e quando raggiunsi somme che ricoprivano 40 pavimenti mi comprai un albergo alla periferia di Praga, un albergo con 40 camere. Ma già la prima notte ebbi l'impressione che nella camera mansarda più in alto, a ogni minuto, qualcuno infilzava chiodi nel pavimento con una terribile mazzata di un'accetta da falegname, e poi ogni giorno, non soltanto in quella prima camera, ma nella seconda, nella terza, nella decima, e alla fine nella quarantesima, tutto insieme e dappertutto, che su ciascun pavimento strisciava a 4 zampe il mio figliolo, 40 figlioli, e ognuno piantava chiodi nel pavimento, con botte potenti, un pavimento dopo l'altro. Ogni giorno, fino alla numero 40. E quando al 40° giorno, assordato dai colpi, domandai se qualcuno sentiva dei colpi di martello, non li sentiva nessuno. Solo io. E così cambiai quell'albergo con un altro. Presi apposta un albergo di sole 30 camere, ma cominciò allo stesso esatto modo del primo albergo. E così dedussi che i soldi per quei francobolli non erano benedetti, che erano soldi presi con la violenza a qualcuno, qualcuno che era stato ucciso, forse erano soldi di qualche rabbino miracoloso, perché i colpi e i chiodi piantati nel pavimento, in realtà, erano chiodi piantati nella mia testa. A ogni colpo sentivo il chiodo che mi penetrava al cranio, al secondo colpo c'entrava dentro per metà, e poi tutto intero, e alla fine non riuscivo neppure a deglutire perché quei lunghi chiavellacci finivano con l'entrarmi dentro la gola. E io però non persi la ragione, perché il mio scopo prefisso non era avere un albergo ed eguagliare tutti gli hotelier, e non volevo né potevo cedere, perché vivevo solo per l'idea che un giorno, magari, sarei arrivato là dove era arrivato l'hotelier Brandeis. Non che avrei avuto posate d'oro per 400 persone come le aveva lui, ma solo 100, e che avrebbero alloggiato da me tutti gli stranieri famosi. Cominciai a costruire un albergo molto diverso da tutti gli altri alberghi. Avevo comprato una gran cava abbandonata vicino a Praga e lì cominciai a completare e abbellire tutto quello che c'era, così come era fatto l'hotel La Quiete. Base dell'albergo era un'enorme fonderia col pavimento in terra battuta e 2 camini. Lasciai anche 4 ferraie così come erano. tutti i martelli, le tenaglie appese ai muri, comperai poltroncine e tavoli in pelle, tutto seguendo il consiglio dell'architetto, un matto che faceva per me le cose di cui sognava ed era entusiasta quanto me, perché io, il giorno stesso in cui la fonderia fu adattata, subito ci dormii, qui in questi camini e fornaci. Qui si dovevano far arrostire sulla griglia davanti ai clienti gli spiedini e l'arrosto alla masnadiera. Così la prima notte sentii i colpi, ma erano debolucci. Nel pavimento di terra, i chiodi entravano veloci come nel burro, sicché sopravvenne un attutimento anche nella mia testa. E io mi gettai con ancora maggior voglia nella costruzione delle camere per i clienti, piccole cabine che nascevano da un lungo edificio simile a un campo di concentramento. Qui prima c'erano il guardaroba e gli alloggi degli operai, ma io li feci trasformare in stanzette, in 40 camere, e per prova feci fare il pavimento con piastrelle ruvide, come ce ne sono in Italia, in Spagna, in generale dove fa caldo. E il primo giorno ascoltai, per prova, e sentii solo come i chiodi slittarono sulla mia testa, mandavano scintille, tanto dura era quella porcellana. E poi quei colpi, dopo il vano tentativo, tacquero del tutto. E io guarii e cominciai a dormire come dormivo prima. E la costruzione continuò così veloce che dopo 2 mesi l'albergo fu aperto. Lo chiamai Hotel alla Cava, perché in me qualcosa si era spezzato e me l'ero cavato via. Era davvero un albergo di prima categoria e qui si dormiva soltanto su prenotazione, era nel bosco e quelle camere stavano a semicerchio intorno a un laghetto azzurro sul fondo di quella cava, sulla roccia che si ergeva per 40 metri in alto ed era di granito, feci piantare da rocciatori stelle alpine e cespugli ornamentali che crescono in condizioni simili e inoltre c'era un cavo di acciaio teso da un'estremità, legato alla cima, attraverso il lago fin giù nell'acqua. Ogni sera avevo un'attrazione. Ingaggiai un artista di circo che usava una rondella, una specie di rotellina di acciaio sotto la quale era infilato un bastoncino corto. Aspettò il momento buono, si staccò e scese giù da quell'altezza e sopra al lago. Illuminato dall'abito fosforescente, si buttò e la rondella scese fin giù. Lui si fermò un attimo, con un contromovimento fece poi una giravolta, si raddrizzò e con le braccia distese si infilò nel lago profondo per poi nuotare lento e rilassato nel suo vestito, aderente e fosforescente, verso la riva sulla quale c'erano i tavolini e le sedie. Tutto era bianco. E io avevo fatto pitturare tutto di bianco, quel colore bianco era ora il colore mio, era una specie di Barrandov, solo che era originale. Io ora potevo gareggiare con chiunque, ma per dire, quella rondella venne fuori da un piccolo di sala che un pomeriggio salì sulla cima e lì afferrò la rondella e andò giù e la lasciò a metà percorso. Quando tutti i clienti gridarono di orrore, si alzarono o caddero riversi sulle poltroncine, tutte le poltrone erano in stile Luigi, il piccolo si raddrizzò e poi in aria si riequilibrò e in frac si infilò per la testa nella superficie dell'acqua, come se il lago lo avesse ingoiato. E in quel momento seppi che questo ci voleva qui ogni giorno e che la sera si doveva fare con un vestito fosforescente, non potevo perderci. E se anche fosse stato, perché una cosa così non ce l'aveva nessuno, non solo a Praga, ma neppure in tutta la Boemia, e forse nell'Europa centrale. E come venni a sapere, neppure in tutto il mondo, perché una volta mi informarono che era arrivato e aveva preso alloggio qui uno scrittore, che si chiamava Steinbeck. Sembrava un capitano di mare e un brigante, e qui gli piaceva tanto, quella fonderia trasformata in sala di ristorante, e quei fuochi, e quei cuochi che lavoravano proprio davanti ai clienti, sicché mentre si finivano gli spiedini e lo arrosto, i clienti da quel guardare erano totalmente affamati e così carichi di voglia di cibo che somigliavano a bambini. Quello scrittore si innamorò più di tutto di quelle macchine per tritare il granito. una specie di mulini impolverati col sistema del macchinario denudato. Si poteva vedere tutto come a una mostra di mulini o a una mostra dove le auto sono tagliate perché si possa vedere il motore. Così quello scrittore era affascinato da quelle macchine che stavano su una spianata davanti alla cava. Di lì si vedeva il paesaggio. Come decine di statue stavano lì le macchine, specie di frese o torni per pietra ora abbandonati, come inventati da scultori matti. Quello scrittore, poi, Steinbeck si chiamava, si era fatto mettere lì il tavolino bianco, con le poltrone e le sedie bianche, e beveva lì ogni giorno al pomeriggio una bottiglia e la sera un'altra bottiglia di cognac francese. E in mezzo a quelle macchine, giù al mulino, guardava il paesaggio, quei paesaggi insulsi, vicino a Velk e Popovice, ma a causa dello scrittore, il passaggio a un tratto era così bello, e le macchine erano così figurative, che quello scrittore mi disse che una cosa così non l'aveva ancora veduta. In un albergo così non aveva mai alloggiato, che poteva averla in America unicamente un attore famoso, un Gary Cooper o uno Spencer Tracy, e fra gli scrittori avrebbe potuto comprarsela unicamente Hemingway, e a quanto la venderei? E io dissi, boh, 2 milioni, e lui poi fece certi conti al tavolo, e poi mi pregò di venire da lui, estrasse un libretto di assegni, e disse che comprava, e che mi avrebbe dato un assegno di $50,000, E io domandai più volte, e lui aumentava sempre a 60, 70, 80 mila dollari. E io vedevo e sapevo che tutto quello, che quell'albergo, non potevo venderlo neppure per $1 milione, perché all'hotel alla cava era il culmine delle mie forze, dei miei sforzi. E io ero allora il primo hotelier fra gli hotelier, perché alberghi come quello del signor Brandeis, come quello del signor Srubeck, alberghi così, ce n'erano al mondo centinaia, migliaia, ma come il mio, non ce n'era nessuno. E così una volta accadde che vennero in auto i più grandi hotelier di Praga, compresi il signor Brandeis e il signor Srubeck. Ordinarono la cena. Il maître e i camerieri apparecchiarono il loro tavolo con la massima cura e buon gusto. Solo per loro fece illuminare dal basso la roccia con 10 riflettori nascosti sotto rododendri, disposti in modo che la roccia risplendesse intera e che risaltassero gli spigoli taglienti e le fantastiche ombre, i fiori, i cespugli. E mi proposi che se quegli hotelier fossero stati inclini a una conciliazione, ad ammettermi fra loro, ad offrirmi di diventare membro dell'associazione degli hotelier, avrei dimenticato tutto, come avrebbero dimenticato anche loro. Loro però non soltanto facevano finta di non avermi mai veduto, ma si sedettero in modo da dare la schiena a tutte quelle bellezze del mio locale. E io mi comportavo esattamente allo stesso modo, potevo sentirmi e mi sentivo vincitore, perché vedevo che si erano messi di spalle alle cose uniche che aveva soltanto il mio locale, perché sapevano e avevano capito che ora ero arrivato più in alto di loro, che da me avevano alloggiato non soltanto Steinbeck, ma anche Maurice Chevalier, per il quale erano arrivate lì tante di quelle donne ed erano restate nei pressi del cava che Chevalier le riceveva al mattino in pigiama e loro, quelle ammiratrici, gli si gettavano addosso e spogliavano il cantante e strappavano il pigiama a pezzettini perché ognuna si portasse via un lembo di quel pigiama. Se avessero potuto avrebbero fatto a pezzettini anche Chevalier, si sarebbero portate via pezzettini della sua carne, ognuna secondo il proprio gusto, sebbene secondo la loro natura quasi tutte al famoso cantante avrebbero strappato prima il cuore e poi il sesso. E quello Chevalier aveva richiamato tanti di quei giornalisti che la foto del mio cava stava su tutte le riviste, non solo le nostre, ma anche straniere. Ricevetti notizie dalla Frankfurter Allgemeine, dalla Züricher Zeitung, dalla Zeit, e nello stesso Herald Tribune c'era il mio albergo, con quelle donne matte intorno a Chevalier in mezzo al piazzale, laddove stavano le statue delle macchine, le macchine circondate da tavolini e sedie bianche, che sullo schienale portavano tralci di vite stilizzati, costruiti da artisti, fabbri, con foglie di ferro. Questo, appunto, erano venuti gli hotelier. Per non riconciliarsi con me, erano venuti solo perché ciò che vedevano era di gran lunga più forte, più bello di quel che immaginavano, e soprattutto anche perché, ora che l'avevano visto, vedevano che quella cava l'avevo comprata per una bazzecola con tutto quello che c'era dentro, ed erano gelosi di me, probabilmente anche perché avevo lasciato tutto come l'avevo comprato e l'albergo ce l'avevo costruito dentro. Sicché chi capiva un po' le cose riconosceva che in qualche modo ero un artista, e questo fu il mio culmine. Quel che di me fece una persona che non era vissuta invano. E così io stesso cominciai a guardare quel mio albergo come un'opera d'arte, come una mia creazione, soltanto per il fatto che l'avevano veduto altri. Mi aprirono gli occhi e io soltanto dopo, in realtà tardi, capii pur tuttavia che anche quelle macchine erano in realtà statue, belle statue, che non avrei dato via per nulla. Anzi, una volta vidi che quel mio edificio nella cava somigliava a quel che aveva raccolto il viaggiatore Holub, che aveva raccolto Napstek, e che certamente sarebbe venuto il momento in cui su ogni macchina, su ogni pietra e su tutto ci sarebbe stata l'etichetta «valore storico». E tuttavia mi sentivo umiliato da quegli hotelier perché continuavo a non farne parte. Non ero pari a loro per ceto, anche se ero superiore a loro. Spesso la notte rimpiangevo che non ci fosse la vecchia Austria, che certamente se ci fossero state manovre militari e avesse alloggiato qui non magari l'imperatore in persona, ma un suo qualche arciduca, l'avrei servito e gli avrei preparato cibo e ambiente, sicché mi avrebbero elevato allo stato nobile, non alto. Sarei stato barone. E così continuavo a sognare, quando vennero i grandi caldi e i campi diventarono tutti secchi e la terra si spaccava, i bambini buttavano bigliettini nelle fessure della terra. Io sognavo l'inverno, come quando sarebbe caduta la neve e quando sarebbe venuto il gelo avrei levigato la superficie del lago, e su quel lago ci sarebbero stati due tavolini sopra due vecchi grammofoni, uno con la tromba azzurra e l'altro con la tromba rosa, simili a grandi fiori, e avrei comprato vecchi dischi per grammofono e avremmo suonato solo vecchi valzer e intermezzi caratteristici, e nella fonderia avrebbero fiammeggiato i fuochi e sulla riva del lago sarebbero arsi in ceste di acciaio e dei ceppi e i clienti avrebbero pattinato. Avrei comprato o fatto fare vecchi pattini a chiavetta, e i signori avrebbero stretto i pattini alle dame e avrebbero tenuto sulle ginocchia i loro piedini, stando accovacciati, e si sarebbero serviti punci bollenti. E così io sognavo. Intanto i giornali e i partiti politici litigavano su chi avrebbe pagato quella siccità nella quale io sognavo così bene le festicciole al cava. E quando anche nel Parlamento i deputati e i membri del governo litigavano su chi avrebbe dunque pagato quella siccità e si accordarono che sarebbero stati i milionari, accolsi questa risoluzione con soddisfazione, perché anch'io ero un milionario. Speravo che il mio nome, come nome di milionario, sarebbe stato sui giornali, che sarebbe stato accanto a quelli di Strubeck e Brandeis e degli altri. Quella siccità, quindi, me l'aveva mandata la mia buona stella. Quella disgrazia era la mia fortuna, attraverso la quale mi sarei trovato laddove desideravo in sogno, come l'arciduca mi innalzava lo stato nobile, che io, piccolino, sempre come ero stato facendo il piccolo, io ero grande, ero milionario. Col passare dei mesi nessuno mi mandava niente. Nessuno voleva da me che pagassi la tassa di milionario. Avevo già comprato 2 grammofoni e inoltre avevo fatto portare una splendida pianola, perché avevo comprato non solo la pianola, ma anche una vecchia giostra con grandi cavalli a dondolo e cervi e renne, sicché quella giostra la feci smontare e i cavalli e i cervi li disposi sulle molle originali, sulle banchine intorno al lago, e ogni cliente si sedeva con la consorte in una chaise longue, quelle sedie francesi rivolte a due l'una contro l'altra, una specie di piccolo canapè dove potevate sedere con una signorina a conversare. Così misi sempre 2 cervi e 2 cavalli vicini, come per una gita galante. Davvero prese piede, i clienti tenevano sempre occupati con le dame e i cavalli e i cervi, e la pianola suonava per loro. E i clienti si dondolavano su quegli animali di legno con bellissime gualdrappe, occhi belli, e in generale con tutto bello, perché era una giostra tedesca di un piccolo proprietario di un tirassegno di un Luna Park. Vi basta? Con questo oggi finisco. Fausto Paravidino ha letto «Ho servito il re d'Inghilterra» di Boumil Rabal, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini, ad alta voce @rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.